Ci dobbiamo fermare, ricordo alle 8:20 il sottosegretario agli interni Alfredo Mantovano, nostro ospite per l'intervista, mentre il sondaggio appunto sul tabaccaio, la legittima difesa, votate pure su radio24.it, questo alle 8:30 nel nostro bianco o nero, ora che dire, lo spazio a GR24. 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:22 minuti. Saluto il sottosegretario al Ministero degli Interni Alfredo Mantovano. Buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Senta, sottosegretario, è arrivata poco fa a Lampedusa la nave San Marco della Marina per iniziare questo trasferimento di migranti. Quando inizierà questa operazione di smistamento, anche se è una brutta parola, nelle varie regioni italiane? Ma guardi, questa operazione è molto simile a quella che fino a questa mattina, fino a ieri, è stata svolta dal ponte aereo. Evidentemente il ponte aereo è più rapido, ma garantisce il trasferimento di un numero inferiore di persone. La nave San Marco è molto più capiente, quindi si inserisce nella linea dell'alleggerimento del carico di persone in un'isola diciamo dalla superficie così circoscritta come Lampedusa. Inizierà, adesso è difficile stabilire l'ora e il minuto preciso, non appena saranno pronti per questa operazione, quindi comunque nel giro di poche ore. Intanto c'è stato il sì delle regioni e questo è un motivo di soddisfazione. Lei crede che poi il sì verrà confermato da tutti? Ha sentito anche lei, probabilmente, il governatore del Veneto Zaia dire noi solo profughi ma clandestini zero, ma come si fa a sapere appena arrivano se uno è un clandestino, se ha diritto di essere profugo o no? Ma ieri ho partecipato all'incontro tra il ministro Maroni, il governatore di tutte le regioni italiane, il presidente dell'ANCI e il presidente dell'UPI, dell'Unione delle Province Italiane. Questa linea di condivisione e di ripartizione degli oneri auspicata nelle linee generali dal Capo dello Stato è condivisa senza riserve da tutti, perlomeno a questo tavolo istituzionale, poi al di fuori ognuno dichiara quello che ritiene, ed è una linea che riguarda in modo particolare i richiedenti asilo. Nei confronti di coloro che fino a questo momento sono venuti dalla Tunisia vi è stato l'intervento di emergenza che è ancora in corso, ma il profilo di chi è arrivato fino a questo momento è il profilo di un giovane maschio che nella gran parte dei casi non sfugge da una persecuzione o da un grave disagio personale, ma cerca un lavoro migliore o addirittura un lavoro visto che non l'ha mai avuto. Quindi è difficile qualificarlo come profugo o rifugiato. E quindi questi verrebbero respinti? Tutti i soggetti che entrano irregolarmente in Europa da un paese al di fuori dei confini europei hanno la qualifica di irregolari e quindi vanno riaccompagnati nel paese d'origine. È chiaro che la quantità oggi impedisce di provvedere subito, però questo è il loro destino. Senta, invece i 50.000 sono i probabili richiedenti asilo eritrei, somali, sudanesi che in questo momento si trovano sul territorio libico e che è facile prevedere che tenteranno la strada dell'arrivo in Italia una volta che il conflitto si... Perfetto, quindi questi non sono ancora in Italia, diciamo, li attendiamo. La riunione fatta ieri è una riunione per non trovarsi poi dalla sera alla mattina con migliaia, se non decine di migliaia di persone provenienti in questo caso non dalle coste tunisine ma da quelle libiche. Certo. E per non sapere come fare, quindi predisporre tutto ciò che sarà necessario. Senta, sottosegretario, il Corriere oggi rilancia l'allarme terrorismo, parlando anche di intercettazioni dalla Gran Bretagna, di fedelissimi del Rais che dicono nelle telefonate dove siamo, combattiamo e facciamo. C'è un allarme particolare in questo momento al Viminale per anche minacce terroristiche? Ma non ci sono segnalazioni specifiche, c'è una notevole preoccupazione derivante sia dalla presenza sul territorio libico in un conflitto così intricato e complesso di soggetti del nuovo terrorismo, quello che in qualche misura fa riferimento all'area salafita e al network di Al-Qaeda, sia in presenza delle reazioni che un vecchio terrorista come Gheddafi può scatenare avendo già, diciamo, una remota ma terribile esperienza in questa materia. E vogliamo sgombrare il fatto, sgombrare il campo da un equivoco che in Italia c'è sempre su questo. Siamo, secondo lei, in guerra? Beh, è difficile negarlo nel momento in cui partono degli aerei all'interno di un'operazione militare e lanciano sul suolo libico delle bombe. E oggi si profila anche sui giornali l'idea di un tentativo di mediazione da parte del premier Berlusconi in primo campo, a dire, a pensare anche a un esilio per Gheddafi. Secondo lei può essere una via d'uscita? Io sto alla risoluzione dell'ONU, del Consiglio di Sicurezza dell'ONU del 1973, la quale punta ad alleviare il più possibile le sofferenze e il dolore delle popolazioni civili e ad arrivare il prima possibile ad una soluzione negoziata. Tutto ciò che va in questa direzione e l'iniziativa del Presidente del Consiglio va in questa direzione e in linea anzitutto col buon senso e poi anche con la risoluzione ONU, che forse nostri partner troppo frettolosamente hanno anticipato e hanno allargato nelle applicazioni concrete. Lei infatti da subito siamo stati uno dei più scettici, diciamo, di questa accelerazione, però le chiedo sull'esilio di Gheddafi, cioè è ipotizzabile un esilio addirittura anche in Italia, come per dire, come in qualsiasi altro paese che ora dice Gheddafi non è più nel futuro della Libia? Ma stiamo andando troppo avanti, io credo che si debba continuare a percorrere la difficile e impegnativa strada diplomatica, perché in questo momento ci sono dei morti in Libia che dipendono forse anche da una certa superficialità con la quale l'intera operazione è stata avviata e soprattutto anticipata da qualche nostro partner. Sì, insomma, lei conferma questo scetticismo nel si tratta di adesione alla realtà. Sì. Se una missione punta a alleviare le sofferenze delle popolazioni civili, le bombe non vanno certamente in questa direzione. La ringrazio, buona giornata. Grazie a voi. Il sottosegretario all'interno Alfredo Mantovano per essere stato con noi. Ci fermiamo per la pubblicità, poi parliamo nel nostro sondaggio della vicenda di cronaca del tabaccaio di Milano che uccise un rapinatore e ne ferì un altro gravemente in una rapina 8 anni fa. È stato assolto per legittima difesa putativa, spiegheremo di cosa si tratta, in appello. Che ne pensate? Siete d'accordo? Dite la vostra, non dobbiamo rifare il processo, ma dite la vostra. 800 24 0024 per intervenire in diretta. Il sondaggio è su radio24.it tra poco. 24 mattino. Eccoci qui, allora, le 8:35 minuti. Come sapete non è nostra abitudine fare processi in radio, perché i processi li lasciamo nelle aule dei tribunali. Ma certo, si può discutere di quello che è successo, l'assoluzione per legittima difesa putativa. Spiegheremo di cosa si tratta, del tabaccaio che sventò una rapina e uccise un rapinatore, ne ferì gravemente un altro nel 2003. È la vicenda che trattiamo nel nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E c'è da dire, tra l'altro, subito io voglio partire dal dato: l'85% dei nostri ascoltatori dice siamo d'accordo con l'assoluzione del tabaccaio, del tabaccaio Giovanni Petrali, che nel 2003 sparò per un tentativo di rapina e uccise uno dei due rapinatori e ne ferì gravemente un altro. È stato assolto in appello. Io voglio salutare Marco Petrali, buongiorno. Buongiorno a lei. È il figlio di Giovanni Petrali, è stato anche ed è uno dei suoi due avvocati, quindi lei incarna, insomma, questo doppio ruolo, quello di difendere in giudizio suo padre, ma anche, insomma, di vivere il dramma di tutta questa vicenda, perché dramma è per chi è morto, ma dramma anche per chi è costretto a sparare in questi casi. Voglio salutare anche Piero Sansonetti, direttore di Calabria Ora e degli altri. Buongiorno direttore, buongiorno Sansonetti. Buongiorno. Allora, Marco Petrali, oggi per la prima volta sul Corriere qualche parola da parte di suo padre, che ha mantenuto sempre un profilo molto molto di riservo di questa vicenda, non ha mai voluto parlare. Per la prima volta parla e dice: mi hanno dipinto per anni come un giustiziere, uno che si è fatto giustizia inseguendo e uccidendo delle persone. Questa è la sensazione che ha suo padre, lei conferma? Sì, purtroppo è così. In effetti, giustamente come lei dice, abbiamo sempre tenuto un profilo basso, anche gli avvocati, come lei sa, hanno sempre rifiutato la partecipazione a trasmissioni e a quant'altro. E però vediamo che nonostante la sentenza, che ha raggiunto un verdetto di un certo tipo, e cioè che è la legittima difesa, ma soprattutto il fatto che tutta l'azione lesiva è avvenuta all'interno del negozio, purtroppo continua a essere disattesa dagli organi di informazione. E quindi questo certamente colpisce. Cioè passare all'idea che li ha inseguiti e gli ha sparato. Questo che ricordiamo, per il codice penale non è che legittima difesa vuol dire che uno può fare quello che vuole. Spesso si fa l'esempio, no? Quando c'è una rapina ipotetica in villa, mettiamo il caso ci sia una rapina, poi i rapinatori fuggono, non è che uno può, non so, da lontano mentre fuggono sparare alle spalle. Questa non è considerata legittima difesa per il codice italiano. Assolutamente no, tanto è vero che se io appunto leggo su quotidiani anche di tiratura nazionale, sul primo quotidiano nazionale, inseguì e uccise, il messaggio che arriva al cittadino certamente non corrisponde a quello che è l'esito del processo, a quello che sarà poi la motivazione della sentenza della Corte d'Assise d'Appello. Quello sì. Senta, suo padre dice io non prenderei comunque mai più in mano un'arma. Questo insomma lo conferma, la sensazione è quella di una vita comunque che è cambiata, una vita che è stata stravolta, anche la vita di suo padre? Assolutamente sì, esattamente in questi termini, si vive un dramma che è di carattere processuale ma soprattutto è di carattere interiore. Però suo padre è stato assolto per legittima difesa putativa. La legittima difesa putativa vuol dire che praticamente ha agito nella convinzione errata di trovarsi in una situazione di pericolo, ma ovviamente una convinzione errata dovuta alla concitazione, dovuta al momento, dovuta allo stress, all'aggressione anche fisica che hanno subito. Ecco, questa legittima difesa putativa, secondo lei, pone qualche dubbio in più, cioè sulla soluzione? Ma da questo punto di vista bisognerà, credo, attendere le motivazioni per capire meglio il percorso della Corte d'Assise. Certamente nel momento in cui il soggetto viene picchiato selvaggiamente, viene sbattuta la testa contro il muro, perde gli occhiali, eccetera, eccetera, le capacità cognitive evidentemente scemano grandemente. Quindi bisognerà poi vedere le motivazioni della sentenza. Io, Piero Sansonetti, il figlio nonché avvocato di Giovanni Petrali, insomma, ci ha spiegato un po' quella la vicenda. Ripeto, noi non lasciamo le aule di tribunale, c'è stata l'assoluzione. Però la sua lettura di quello che è successo, di questo fatto di cronaca, qual è? Beh, naturalmente il figlio, l'avvocato, diciamo, conosce il caso molto meglio di me, che l'ho letto sui giornali, non l'ho seguito personalmente, non conosco i dettagli. Io vi dirò la verità, quando c'è un'assoluzione sono sempre contento di chiunque, perché non credo che sia la pena la chiave del funzionamento della nostra società, e credo che sempre nella pena, in un certo modo di concepire la giustizia, ci sia un elemento di vendetta, ci sia ancora, nonostante la nostra grande civiltà giuridica, questo retaggio del passato, questo considerare la pena come una forma di vendetta in fondo. E quindi non mi scandalizzo mai quando c'è una soluzione, sono sempre contento. Però detto questo, credo che ci sia un elemento negativo in una sentenza che in sostanza, con questa formulazione molto curiosa, lo diceva anche l'avvocato, adesso anche il figlio di legittima difesa putativa, che non è che sappiamo bene che cosa voglia dire, è una sentenza che rischia di incoraggiare, anche perché, vedete, in queste cose l'opinione pubblica, il modo come si comporta nei giornali, conta moltissimo. Allora, da una parte, e diceva prima l'avvocato, ci sono stati giornali che forse, io non lo so adesso perché non conosco bene il caso, hanno raccontato ad esagerato il giustiziere, l'assassino, l'uccisore, eccetera. Dall'altra c'è una parte delle forze politiche, anche dei giornali, che esulta per dire è stato assolto, finalmente si è stabilito, siamo tutti tabaccai, possiamo sparare tutti. Ecco, questo, far passare l'idea che in fondo sparare rapinatori è una cosa che si può fare, diciamo, è un fatto pericolosissimo che invece a me non piace. Ma su questo, infatti, ieri titolava, per esempio, Libero: finalmente un giudice che dice c'è la legittima difesa. Ecco, questo è un dramma. Questo è l'aspetto molto negativo, comunque, di una sentenza. Ripeto, io sono sempre contento, però che dopo si crei una campagna per dire finalmente un giudice dice che si può sparare, badate, non è così, anche perché un attimo fa l'avvocato ci ha spiegato che questa è la sentenza, che la sentenza è un'altra, dice che in quelle condizioni, io non lo so se è giusto o sbagliata, francamente, questa sentenza, a occhio è sbagliata, ma io non sono fra quelli che dicono che le sentenze si prendono e basta, penso che sia legittimo discuterle, però se è giusta questa sentenza, è giusta perché stabilisce che in condizioni impossibili, eccetera, eccetera, ha pensato che lo stava ammazzando e quindi si è difeso e ha sparato, ma non che i tabaccai possono sparare i rapinatori. No, ma questo è una tragedia, cioè, il titolo di Libero è molto molto pericoloso. quell'idea sì che fa passare l'idea del Far West. Infatti vorrei chiedere, Marco Petrali, questa idea per esempio dell'appoggio della Lega, siamo tutti adesso al di là, so che anche suo fratello tra l'altro, quindi un altro figlio, Giovanni Petrali, si candiderà alle amministrative della Lega, siamo tutti tabaccai, io capisco l'appoggio, il sostegno magari morale, però non rischia di far passare un messaggio pericoloso, come dice Piero Sansonetti, cioè dice adesso appena entra il primo potete pure aprire il fuoco, tanto c'è una sentenza che vi aiuta dalla vostra parte. Certamente, io concordo col direttore, bisogna stare attenti a non sovrapporre i piani, perché vede, anche ieri alcuni giornalisti, proprio perché forse un po' fuorviati da come l'opinione pubblica pone questa vicenda, mi hanno chiamato dicendo: ma cos'ha di così innovativo questa sentenza? La verità è che questa sentenza non ha proprio niente di innovativo. Questa sentenza si inserisce nel solco della nostra tradizione giuridica. È certo che se vi è la sovrapposizione dei piani, cioè si sposta ciò che è avvenuto dentro in una situazione di legittima difesa e lo si porta fuori, allora certamente il piano cambia e il discorso che fa il direttore è sicuramente corretto. Non c'è nessuna legittimazione a sparare, soprattutto nel momento in cui ti pone all'inseguimento di qualcuno che ha attaccato un tuo diritto. Ma questo appoggio politico, questo tifo da stadio, c'è stato Salvini aveva detto invaderemo il tribunale pacificamente nel giorno della sentenza, via, le fa piacere? Ne avrebbe fatto a meno oppure? Guardi, è difficile rispondere, nel momento in cui tu hai una disinformazione contro di te, una persona, perché prima di essere un esponente di un partito politico, Salvini si è presentato come persona verso mio padre, e questa solidarietà comunque ti fa bene, perché tu vedi tutti contro. È ovvio che poi ci sta che ci sia una certa forzatura politica, però fa da contraltare a questa situazione il fatto che altri esponenti di altre forze politiche appunto parlavano di Far West, di giustiziere eccetera, sì. Cosa che nei fatti non era. Allora io voglio andare alle informazioni sul traffico, poi sentiremo anche qualche ascoltatore, continuiamo questo dibattito, state chiamando in moltissimi su questo tema, 800 24 0024, il tabaccaio che sparò, uccise un rapinatore, ne ferì un altro, è stato assolto, tra pochissimo rientriamo. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E allora eccoci qua, voglio sentire Andrea da Siena, buongiorno. Andrea. Buongiorno a lei, dica. Buongiorno. Sì, buongiorno, mi sente? Bene, insomma, benissimo, no, però dica. Sono col cellulare, mi dispiace. Niente, io mi chiamavo perché volevo esprimere quella che era la mia completa solidarietà al tabaccaio, perché ritrovo assolutamente ingiusta una condanna per omicidio colposo quando c'è stato un delinquente che ha effettuato una rapina e una completa mancanza da parte dell'istituzione nella difesa di un cittadino che faceva solo il suo lavoro. No, però Andrea, allora, mi scusi, noi cioè, lo so che vado un po' contro il titolo della trasmissione, insomma, non facciamo bianco o nero in questo, cioè non è che dire magari porre dei dubbi sulla legittimità che uno possa sparare vuol dire stare dalla parte del rapinatore, che peraltro uno dei due è morto, insomma, però non vuol dire mica dire allora state coi rapinatori, non è proprio così. Però lei vuole esprimere solidarietà e giustamente ha fatto, la ringrazio di questo. Voglio andare a Marco da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per l'opportunità. Non intendo ovviamente mancare di rispetto a nessuno, ci mancherebbe altro, intendevo sottolineare soltanto, ecco, la vicinanza. Io sono d'accordo col direttore che dice che in qualche modo purtroppo un po' si malleva un po' questo concetto del Far West. Io questa è una cosa che temo perché è latente in questo periodo storico del nostro paese, credo. Per di più, una sentenza di questo tipo secondo me avvicina un po' la vicenda anche a un qualche riverbero che ha a che vedere con il discorso di uno Stato che in qualche modo così acconsente, no? Lo spegnimento di una vita sbagliata da punire per un atto ingiusto, con tutto quello che si vuole. Non so, io ho sentito anche un po' una sorta di vicinanza a un concetto di pena di morte, no? Che è lontano, che non c'entra niente, e anche qui i discorsi sono ben distinti. Però la strada imboccata potrebbe anche un po' essere questa. Ora, dice, a me fa piacere, rischio. Capisco il dramma, ci mancherebbe altro, però è un rischio secondo me, ecco. Lei dice c'è questo rischio, come denuncia Piero Sansonetti. Voglio sentire anche Martino da Milano, buongiorno. Martino, dica. Buongiorno. No, io volevo dire semplicemente che ero presente lì in Piazzale Baracca quel giorno. Cioè, in che senso? Lei era lì il giorno del il sì, 20? Sì, io ero in Piazzale Baracca, fermo al semaforo, ho visto una persona sgranare gli occhi e dirmi andate via, sparano. E ho visto un signore indemoniato con la pistola nella mano, la scopa nell'altra, che sparava per strada, ecco, fino in via San Vittore, percorso 500 metri. 500 metri. Sparando per strada, cioè poteva colpire qualcuno che passava, ecco, perché lui ha iniziato a sparare dentro e ha proseguito fuori. Secondo me la legittima difesa c'è fino a quando rimane dentro, lui è uscito dal ricorso fino a San Vittore. Vabbè, Martino, oltretutto voglio dire, sì. Per sparare una persona di corsa in quelle condizioni, centrarlo e ucciderlo vuol dire che questo signore andava al poligono ad allenarsi. Vabbè, adesso sicuramente aveva un regolare porto d'armi e ha un regolare porto d'armi. Martino, lei era testimone, però qua poi avvocato e figlio Marco Petrali, poi si entra poi a discutere di questioni processuali che noi non conosciamo e che sono state affrontate tutte credo dal tribunale, però insomma Martino dice io c'ero, ho visto sparare fuori suo padre. Ma questo certamente è un fatto da condannare da parte di una persona che comunque aveva perso la testa ed era diventato un automa. L'intervento dell'ascoltatore peraltro lascia capire chiaramente la disinformazione che c'è stata, perché l'azione lesiva che ha portato alla morte purtroppo del rapinatore, al ferimento dell'altro, è avvenuta all'interno dell'esercizio. Sì, cioè dice il colpo mortale è avvenuto all'interno, sì. Però conferma che suo padre insomma ha sparato anche un po' all'impazzata fuori, ecco, perché aveva perso un po' il senno, diciamo. Indubbiamente. Sansonetti, la questione insomma del rischio di trasformare tutto questo in un far west, dice l'ascoltatore, è anche un periodo storico dove rischia di passare questo messaggio latente. Non so a cosa si riferisse l'ascoltatore, insomma, secondo lei Sansonetti cosa vuol dire questo periodo storico? Questo periodo storico, ma non è quello che stiamo vivendo, sicuramente sì, negli ultimi anni c'è stata un'accentuazione nell'opinione pubblica di un certo, in gergo si dice forcaiolismo, no? Che cosa vuol dire? Vuol dire pensare che fondamentalmente insomma ci sono vari tipi di forcaiolismo. Il forcaiolismo fondamentale è quello che dice bisogna tutti in prigione. E poi però anche quello che dice che insomma ci si può difendere, si può sparare, eccetera. Intanto Sansonetti, siccome ci scrive, perché so che ci ascolta sempre, è stato nostro ospite e lo è spesso, Matteo Salvini, no? Lo riconosciamo dal cellulare, ci scrive in diretta, dice per una volta una sentenza giusta e vicina al sentire comune. Ecco, questa idea Sansonetti del sentire comune, visto che idealmente la sta ascoltando Salvini. Il sentire comune è un po' quello che diceva l'ascoltatore di prima, è vero, c'è un sentire comune che dice che se tu metti sotto una persona con la macchina per sbaglio ti devono dare omicidio volontario e se spari un rapinatore ti devono assolvere. Ora naturalmente insisto, caso per caso, e quindi io questo caso lo conosco, adesso ho sentito una testimonianza, però c'era il figlio che fa l'avvocato, diciamo, che segue il processo, dice una cosa diversa, quindi poi i giudici hanno stabilito sulla base di alcuni elementi, però l'idea di fare le manifestazioni per dire siamo tutti tabaccai e bisogna esplorare i ragazzini è una pazzia. Capito? Anche perché lo dicevate giustamente voi, poi non è che stiamo parlando di un caso asettico, è morto un ragazzino, che rubava, che picchiava, che faceva un sacco di cose cattive e che probabilmente andava messo in prigione, però è morto un ragazzino, quindi l'idea di fare una manifestazione per dire bravo, è morto un ragazzino, e voi capite che il messaggio politico che viene, a parte il messaggio di dire che ai tribunali si va a fare le manifestazioni, io questo sono contrario quando le si fanno contro Berlusconi o a favore di Berlusconi, almeno nei tribunali, Dio buono, lasciamo che si possa, cioè ricorda davvero, ha ragione l'ascoltatore di prima, non la pena di morte che c'entra poco forse, ma il linciaggio sì, cioè l'idea che la giustizia sia un moto di popolo, e allora siamo col tabaccaio, allora siamo contro Berlusconi, allora siamo, è un ritorno indietro della civiltà, questo forse era il riferimento al periodo storico. Senta, io credo che sia vero, torna indietro la nostra civiltà giuridica. Marco Petrali, oggi leggo sul Corriere della Sera che suo padre vorrebbe, forse sta pensando di riaprire un negozio, insomma di riaprire un'attività, insomma. Mi sta dicendo una cosa che non conosco. So, titolo al Corriere, il tabaccaio vuole aprire un nuovo negozio, per 8 anni mi hanno trattato da giustiziere, ora riprendo a vivere. non so, forse è un sentimento profondo, dice la mia vita è sempre stata lì in, a fare il negoziante, a fare il commerciante, insomma. Questo sicuramente glielo posso confermare, ha iniziato credo all'età di 13 o 14 anni a fare questo lavoro e l'ha portato avanti per 50 anni. Francamente mi risulta nuova la notizia che voglia aprire un negozio. Alle soglie degli 80 anni aprire un negozio. Per concludere invece questo, posto che nessuno obbliga nessuno a fare alcunché, ha mai pensato suo padre di contattare la famiglia del rapinatore ucciso? C'era stato all'inizio il tentativo anche con il coinvolgimento di, diciamo così, di alcuni prelati per appunto tentare questo approccio, questo avvicinamento, poi la cosa si è persa anche perché anche lì ha giocato, credo, appunto tutto quello che era successo fuori dal negozio, e per cui la cosa si è persa e poi la logica della contrapposizione anche processuale ha impedito un po' questo riavvicinamento. Però sarebbe disponibile dal punto di vista umano, insomma dal punto di vista della predisposizione a parlare, so che c'è una sorella della certo, io credo di sì, non ne ho mai parlato espressamente con mio padre, però certamente nel momento in cui gli sento dire, e lo ha ripetuto più volte, di avere che gli dava un minimo di, diciamo così, di sollievo il fatto che di aver sentito che l'altro rapinatore aveva fatto un percorso, diciamo, di riabilitazione, aveva studiato, per lui era un motivo certamente di sollievo. Di soddisfazione. Io la ringrazio per essere stato con noi. Marco Petrali è l'avvocato e figlio del tabaccaio Giovanni Petrali, così come ringrazio Piero Sansonetti, direttore di Calabria Ora e degli altri. Ci fermiamo qui con Alessandro Longoni e Elisabetta Fusconi in redazione e Peter Bescapè in regia. Come sempre la linea va a Oscar Giannino. Voi seguiteci su Facebook 24 Mattino, è la nostra pagina. A domani.